Allora, buonasera a tutte. Benvenuti, benvenute, benvenuta a questo festival. E abbiamo pensato di affrontare varie tematiche. Ci sembrava importante aprire un festival di letteratura working class con una riflessione. E sul mondo queer e dei diritti LGBTQ più i LGBTQIA+, e per fare questo abbiamo con noi Filo Sottile, che è autrice di un libro edito da Alegre. Che potete anche trovare nella libreria, che si intitola Senza titolo di viaggio, storie e canzoni dal margine dei generi, e Marte Manca, attivista degli Stati Generali e di Non Una di Meno. Il titolo già di questo dibattito, in verità all'inizio era diverso, insomma, è stato un po' oggetto di discussione. È stato molto oggetto di discussione, dice Filo, e io partirei proprio da qui, da questo titolo che è bello impegnativo, insomma, cioè la working class è queer. Cosa intendiamo con la working class è queer? Ok. Allora, la working class è queer? Sì, la working class è sempre stata queer. Io posso dire da quando la conosco, ossia ci lavoro, io parlo della fabbrica, sono 22 anni che lavoro in fabbrica, quindi beh, sì, tantissima manovalanza, tantissima manodopera, tantissima no, adesso quantitativamente non la so, però. Mi è capitato spesso di riconoscerci e allo stesso tempo di far finta di niente, perché c'è stata una, diciamo, quasi una cancellazione anche, anche nostra, in cui per un periodo abbiamo avuto il tempo di assimilare un po'. Dovuto anche a una serie di borghesizzazione per quanto riguarda diciamo diritti civili, eccetera, in cui noi eravamo completamente fuori dai luoghi di lavoro, anche se c'eravamo, in cui la cosiddetta diversity doveva essere tanto caruccia, tanto appetibile per la stampa, ma non doveva essere come. Posso dire, scusate, ma io sono braccio rubata alla fabbrica e sto facendo questa iniziativa, quindi permettetemi che non userò condizionali né congiuntivi, quindi abbiate pazienza. C'è stata questa specie di vergogna quasi di non visibilizzarsi. Un po' eravamo i fighetti dentro le manifestazioni, ma dentro i luoghi di lavoro era meglio non dire nulla. Chi invece si visibilizzava, pena l'emarginazione. E da qui quindi possiamo anche dire poi le conquiste che sono avvenute, ma sono avvenute molto tardi. Considerate che il primo trafiletto dovuto comunque poi a delle vertenze che ci sono state, delle cause importanti che ci sono state. Poi insomma ne parleremo magari più avanti, in cui le persone LGBT e le persone che si visibilizzavano hanno fortemente voluto essere riconosciute. Fondamentalmente noi avevamo solo una cosa che tutti conoscono, come lo Stato dei lavoratori, ossia la legge 300, l'articolo 14-15. Cosa avveniva? Che non era esplicitato, perché comunque negli anni 70, quando è stato scritto questo, lo Statuto dei lavoratori, che è una legge ancora vigente, cosa accade? Sebbene in quei tempi erano molto più avanti rispetto ad oggi, non era esplicitato comunque tutta una serie di evoluzioni nella società e di terminologie che avvenivano, inizi anni 2000, quando io sono entrato nel mondo del lavoro. E è stato solo nel 2013 con la 206/13 in cui viene messo per iscritto che le discriminazioni per quanto riguarda comportamento verbale, comportamento discriminatorio, eccetera, eccetera. Adesso non me la faccio lunga, se no va morbo, perché insomma non vorrei togliere questa suspense. Veniva riconosciuto appunto la discriminazione anche per quanto riguarda l'identità di genere. Ma già da una decina d'anni le persone transgender e le persone non binarie già erano sul fronte in cui cercavano di visibilizzarsi. Quindi ho fatto tutto questo spiegone per dire appunto che io parlo solo di questo, quindi non faccio il trans, non faccio la persona trans come mestiere, si vede. Cominciamo a richiedere ancora maggiore visibilità. Però devono passare altri tanti anni in cui finalmente parliamo di persone queer nella classe lavoratrice in toto, perché io non posso dire classe operaia, sono operaio, però non posso dire classe operaia, perché le persone LGBT, le persone queer sono in tutti i settori, cioè noi ci siamo e stiamo cercando di visibilizzarci ancora di più. Ed è dovuto soprattutto a proprio la presa di coscienza di tutti questi, degli anni 90 fino al 2000, in cui un po' è stato silenziato, un po' è stato imborghesito anche il movimento LGBT, quasi come se non doveva essere presentabile agli occhi di tutti, un po' eteronormato, ecco, insomma, un po' tanto. Quindi io ho finito il pippone, passo a te. Ciao a tutti, a tutte e a tutte, grazie Francesca, grazie Marte. La working class è queer. Io parto da uno dei frammenti che mi è sembrato importante scrivere in questo libro, che questa sera forse non presentiamo, però l'abbiamo messo come stratagemma per fare questa chiacchiera. Allungo sia all'interno di certi ambienti della sinistra, sia in ambienti che esulano da quelli della sinistra, si è detto che essere persone froce è un segno di decadentismo o una deviazione borghese. La cosa che possiamo dire con ragionevolezza scientifica, cioè con dati alla mano, è che le persone queer sono egualmente distribuite in tutte le classi sociali, e quindi in una società in cui c'è una grandissima presenza di persone nelle classi sociali basse e una ristretta presenza di persone nelle classi sociali alte, le persone froce sono soprattutto delle classi sociali basse. Lo so per certo, in questa platea, in questo momento, ci sono delle persone froce. All'interno della GKN ci sono delle persone froce all'interno di questa di questo gruppo ci sono delle persone froce, no? E che fanno parte della working class. La questione è il privilegio di mostrarsi, il privilegio di dirsi persone froce, il privilegio di mettere in discussione il sistema binario, il sistema patriarcale. Il sistema patriarcale si regge su un architrave che è il sistema binario. Il sistema patriarcale ha bisogno di mettere in gerarchia i generi, ha bisogno di dire maschio, bianco, cis al vertice, etero, e sotto a discendere tutte le altre persone. Non maschio, non bianco, non cis, non etero, Quindi cosa succede? Succede che nelle classi sociali più basse le persone froce sono presenti, ma hanno meno possibilità di visibilizzarsi, hanno meno possibilità di raccontarsi, di parlare di sé, di esplicitare quali sono le relazioni che intrecciano con le altre persone, con il mondo, per cui vivono una vita dimidiata, una vita minore, perché è una vita che non può essere esplicitata. Quindi la working class è queer? Sicuramente sì, nel senso che viviamo in un mondo che dà per assodato che tutte le persone sono etero, sono cisgender, sono abili, sono bianche, no? E tutte le deviazioni che sono no? Tutte le deviazioni da quella che è assunta come la norma, che è una norma estremamente ridotta rispetto a quella che è l'esperienza dell'esistente, anche rimanendo soltanto nell'ambito umano. Dopodiché, invece, il reale è molto più complesso e ha molte più sfaccettature. Io faccio fatica a parlare di diritti. Preferisco porla su un altro piano la questione, ma il fatto è che le persone queer esistono, le persone froce esistono, le persone froce lavorano invisibilizzate, le persone froce visibilizzate spesso non hanno la possibilità di accedere al reddito. E in tutto questo vuol dire che c'è una lotta di classe che deve essere ancora fatta e che dobbiamo fare. Allora, nel libro di Filo ci sono molte espressioni molto belle, molto chiare anche, e a un certo punto rispetto alla questione del binarismo obbligatorio, diciamo, verso cui veniamo spinti, verso questa dualità di genere che alla fine è scarsamente rappresentata anche in natura, di fatto, cioè non così rappresentata come si pensa, e Filo scrive che è la società a premere sui nostri corpi. E quindi c'è tutta un'immagine, un'intera società che spinge e che alla fine disegna in qualche modo i nostri corpi al di là di come essi sono anche nella realtà. E però chiaramente uscire da questa pressione non è semplice soprattutto appunto per la working class, che subisce tante altre pressioni, diciamo. E il rischio è quello, scrive in una frase che mi è piaciuta tanto e che la ripete più di una volta, di adagiarsi tra i rovi della vita così com'è. E è una cosa che capiamo tutte e tutti e tutte, no? Indipendentemente, cioè la working class è un po' spinta, anche in quanto working class, a adagiarsi tra i rovi sempre più spinosi, no? Della precarizzazione, dei licenziamenti, delle delocalizzazioni, delle flessibilità, dei turni spezzati di notte, i sabati e le domeniche, gli straordinari ordinari. Sono tutti rovi che poi alla fine vengono accettati. E così anche l'identità è spinta allo stesso modo a trovare a cercare una sopravvivenza dolorosa in mezzo a tutta una serie di rovi. Ecco, volevo chiedere sia a Marte sia a Filo una riflessione su questa idea dell'adagiarsi sulla vita così com'è, su invece l'idea del rompere, del resistere alla pressione che la società fa sulle vite e sui corpi e del rompere questa pressione. Allora, questa è una bellissimo punto di partenza, sull'adagiarsi, l'espressione che usa Filo è magnifica. Proprio i rovi, sono dei rovi proprio che ti graffiano e allo stesso tempo proprio per questa cappa ti lasci graffiare da questi rovi e rimani comunque molto spesso fermo, quasi come immobile, come se avessi paura. Io ho fatto il mio, parlo di me, ma come me moltissime altre persone, io ho fatto coming out 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, ormai un po' di tempo, anche 3, e diciamo quello pubblico è la cosa che più, sono stata la prima persona trans a ottenere la carriera alias nella mia provincia Macerata in appalto, ed è stata una cosa per me straordinaria, ma passata sotto silenzio, quasi come se non fosse un fatto epocale, perché appunto c'è questa cappa in cui non si deve passare assolutamente nulla. E, un anno fa io ho ottenuto la carriera alias, cioè ero la prima persona a ottenere la carriera alias in appalto nelle multiservizi. Questo fatto l'ho ottenuta dopo 6 mesi di lotta, non vi dico, però queste cose sono una cosa che magari non vi voglio tediare più di tanto, ma è proprio il fatto che siamo talmente frammentati nelle nostre vite, ma anche all'interno della classe lavoratrice, della working class, che non riusciamo a riconoscere nell'altro tutta un'altra serie di rivendicazioni all'interno delle stesse rivendicazioni che sono del salario. Cioè io richiedo gli stessi soldi di salario di un altro, richiedo la stessa pausa di un altro, richiedo lo stesso riconoscimento di un altro. Se io mi chiamo Marte non ho il mio dead name, e quella è una richiesta che fa parte dei diritti del lavoratore, dei lavoratori, delle lavoratrici e dei lavoratori, non stiamo parlando di aria fresca. Quindi è questa cosa qua che viene un po' frammentata, perché allora io lo vedo negli appalti, io vedo nel mio e non, pur di non rischiare il mio piccolo di contrattazione individuale, perché negli appalti è una mera contrattazione individuale, cioè proprio siamo dei piragna che ci si magna l'uno con l'altro, succede allo stesso tempo dentro la fabbrica dove lavoro, che è del tessile, in cui lavorano ancora Cottimo e sono la gran parte persone cisgender. Quando andiamo sulla piazza, tutte quante le 10 ditte d'appalto esterne, perché poi la fabbrica c'ha, cioè, so 400 persone, non è la dittarella così, è una multinazionale, noi richiediamo salari, ma all'interno di quei salari ho richiesto che venisse pure riconosciuto il diritto di essere chiamato con il mio nome, perché quello è un cazzo, scusa, è un diritto. Scusate Francesco, perdono, chiedo perdono alla platea, è un diritto sacrosanto. Io non sono il mio dead name, io sono Marte, cioè ho lottato 6 mesi per avere quel tesserino ID, ed è un diritto che non deve prescindere dal richiedere 50 euro in più all'anno, vanno dei pari passo, perché come sono ricattato a ribasso per le ore, allo stesso tempo sono ricattato e vengo disconosciuto nella mia identità. Quindi tu mi puoi passare col rullo compressore, perché nella legge, la 164 dell'82, non è previsto che tu mi debba riconoscere, a meno che io non c'ho una retifica anagrafica. E questo è la mia lotta quottidiana, ed è la lotta quotidiana di 100.000 persone transgender, che sono quelle poi riconosciute, quelle diciamo che sono dentro le associazioni eccetera, ma sono molte di più le persone transgender. Io appartengo a quella platea di altre migliaia di persone che non avranno mai la rettifica dei documenti, perché io sono una persona gender, non mi riconosco nel genere maschile né nel femminile. E il genere X in Italia non esiste, posso esistere in Francia, posso esistere nel mio paese di origine, l'Argentina, posso esistere in diversi paesi, ma non in Italia. Quindi questa è proprio la messa a terra del binarismo. E non credete che questi siano diritti astratti, sono diritti concreti, perché io non c'ho un nome in questo paese, sono apolide, cioè boh così, Marte chi è? Sono senza titolo di viaggio, esattamente come dice Filo, che lo dirà molto meglio di me sicuramente, però insomma era un po' per dirvi quanto questo libro riporta poi alla tematica come il lavoro. Cioè, vorrei far capire alle persone qui e anche alla classe operaia mia, io ho lottato tantissimo per 3 anni per essere riconosciuto dalla mia classe lavoratrice, dicendo che se io sto sulla piazza per chiedere 50 euro, per chiedere più sicurezza sul posto di lavoro, la sicurezza sul posto di lavoro passa anche dal mio riconoscimento, perché è una questione di sicurezza, di salute mentale. La salute mentale è strettamente legata ai luoghi di lavoro, non è astratta. Nei contratti nazionali, ma pure che scatto il possumo, perché cioè, penso che sia proprio la base. Okay. Comunque, nel contratto nazionale, nei rinnovi contrattuali nazionali, ed è questo che io voglio far capire a tutti i sindacati, deve essere riconosciuta la persona in quanto la sua identità sul luogo di lavoro. Perché per noi è facilissimo, ogni 3x2 essere misgenderati. Oh, scusa, mi sono sbagliato, però sai perché sei femmina? No, scusa, mi sono sbagliato, sai perché sei... Succede, capita. Solo che a me succede praticamente su 300, ce ne sono 150, quindi queste persone TC sono abbastanza ricorrenti, ma credo che sui posti vostri di lavoro ne trovate tanti. E quindi la persona che non ha un'identità in quel momento è soggetta a qualsiasi marea, qualsiasi, cioè viene il primo tizio che non ti chiami così, perché io ho il tesserino qui, cioè dovresti leggere, c'è scritto, no? Cioè l'alfabeto l'abbiamo conosciuti tutti sin dalle elementari, so 4 letterine simpatici, sono simpatici. E questa cosa però ti porta a uno stress continuo, se tu ci lavori 8 ore al giorno con la persona che ti chiama oggi così, domani così, e soprattutto rimani praticamente dentro con questo rovo dove te graffiano e tu vorresti uscire e non riesci a uscire proprio. Quindi il mio appello è, uno, i contratti nazionali devono cominciare a parlare a tutta la platea. Quindi includendo le persone trans. 2, non è vero che le persone trans sono distaccate dalla classe lavoratrice, perché noi ci lavoriamo, vogliamo essere riconosciute e soprattutto vogliamo dei diritti, così esattamente come vogliamo che vengano rispettate le nostre identità. E terza cosa, è una questione di prevenzione e salute, perché il primo articolo del testo unico 81 parla di che è obbligatorio del datore di lavoro di mettere a disposizione tutti quegli strumenti atti a tutelare la persona che non la metta in condizioni di pericolo sia per la salute mentale che fisico. Se io sono soggetto a stress, mi faccio più male, la faccio terra, perché insomma io non la faccio terra. Se io vengo misgenderato nei 3x2, se io vengo attaccato o discriminato in quel luogo, sarò sotto stress, mi farò male, cadrò, non sarò attento, non andrò al lavoro con una serie di prospettive, non che ce ne siano tante nelle prospettive, perché il mondo del lavoro è uno schifo, però nel senso che comunque tu vai ancora con più magone, è uno stress incredibile, cioè la stessa cosa che subiscono le persone cisgender, non è che è una roba così, ma se tu non vieni riconosciuto ci vai ancora peggio, rischi soprattutto di far male a te stesso e alla tua salute mentale. Della salute mentale è importante parlarne, perché sul posto di lavoro noi rischiamo di finire sottoterra per il sovraccarico, non solo lavorativo, ma anche per il sovraccarico soprattutto psichico, perché veniamo trattati malissimo sui posti di lavoro e questa cosa non esce, non sono i 50 euro a rendermi la vita migliore, è la mia salute mentale insieme a quei 50 euro, e noi dobbiamo ribadire ancora un'altra volta come proprio rivendicazione sociale che abbiamo il diritto di avere una salute mentale sana sui posti di lavoro, perché essere trattati come delle merde sui posti di lavoro non è scritto da nessuna parte. Adesso, a prescindere se siamo persone cisgender o transgender, ma la questione mentale è un diritto universale. Finito, scusate. Ok, grazie. Grazie Marte, grazie Francesca della domanda. Provo a dire una serie di cose che all'inizio appariranno slegate e poi provo a metterle tutte insieme. Parto da una considerazione. L'identità di genere ce l'hanno tutte le persone, non soltanto le persone trans. L'altra considerazione è che l'identità di genere non è una cosa che riguarda te, non è una cosa che riguarda la persona, ma è una cosa che riguarda la maniera in cui ti relazioni con le altre persone. Non sono io che sono trans, ma sono è la maniera in cui io provo a stare insieme a te. E c'è una maniera in cui tu puoi riconoscere la maniera in cui sto insieme a te, oppure puoi chiudere gli occhi davanti alla maniera in cui io sto insieme a te, no? E questo è. Non riguarda me, riguarda noi. Non è un fatto personale, non è un fatto individuale, è un fatto sociale. E se è un fatto sociale, è anche un fatto politico. L'altro fatto che appare slegato è che quando io ho cominciato a scrivere questo libro senza titolo di viaggio, non volevo scrivere un libro. Qua ci sono i testimoni del fatto che sto dicendo la verità, e qua in prima fila il testimone numero uno. Io volevo scrivere un articolo, e volevo scrivere un articolo sull'onda della carogna, della rabbia che stavo subendo, cioè della rabbia del fatto che stavo subendo come persona trans una discriminazione sul posto di lavoro. Fino a quel momento avevo vissuto una storia di classe di un certo tipo, vengo da una famiglia di persone che sono migrate dalla Sicilia in Piemonte, persone che vengono da una famiglia contadina, la faccio molto breve, che in Piemonte hanno lavorato mia madre in una fabbrica di lampadari, mio padre in Fiat. Mio padre, all'indomani della marcia dei 40.000, si è licenziato e è andato a fare il lavoro che faceva quando era bambino, perché ha cominciato a 6 anni, e in Sicilia è andato a fare il falegname. E io, 2 giorni dopo l'esame di terza media, ero in falegnameria con mio padre. Sono stata una piccolo borghese, cioè nel senso ho fatto parte di quella classe artigiana che guadagna come un operaio, però ha tutta una serie di privilegi rispetto a un operaio e anche delle fatiche. Nel momento in cui ho deciso che avrei fatto coming out come persona trans, mi sono trovata declassata. Mi sono trovata a fare lavori su un piano decisamente più basso e ad avere molte più difficoltà di quante ne avessi prima. Ho cominciato a peregrinare, no? dalla possibilità di lavorare faticando, ma lavorare tranquillamente sempre, a mettere in discussione il fatto di avere accesso a un reddito. Nel momento in cui ho cominciato a scrivere quello che doveva, nelle mie intenzioni, essere un articolo, ero bibliotecaria, precaria, esternalizzata, in appalto, all'Università di Torino. E sebbene l'Università di Torino dal 2015 si sia dotata di un regolamento per carriere alias, quel tipo di regolamento che permette di, alle persone trans di essere riconosciute nei loro nomi, nei loro pronomi, benché non abbiano una sentenza di un tribunale che dice che hanno davvero quel nome. Quel diritto è riconosciuto alle studenti, studentesse, studente, persone che pagano le tasse, ma non è riconosciuto a chi lavora per l'università, perché non è previsto che una persona che lavora in quell'istituzione sia trans, perché non è previsto che le persone trans esistano di fatto in questa società. E quindi da questa cosa che mi stava succedendo volevo fare delle riflessioni. Le volevo fare perché era anche il periodo in cui per la prima volta nella mia esperienza, da quello che mi sembrava di capire, per la prima volta sui quotidiani mainstream, sugli organi di informazione, sui media, si parlava dell'esistenza delle persone froce. Perché erano i mesi, stiamo parlando del gennaio del 2021, in cui si parlava di DDL Zan. E sembrava che quella fosse l'ultima frontiera di liberazione, di emancipazione per le persone trans. E a me sembrava che invece la discussione fosse completamente fuori fuoco. Non sembrava solo a me. Sono un attivista transfemminista, nei collettivi in cui milito la discussione era questa: ma che cazzo stiamo dicendo? Cioè, questa legge che mette in castigo per un turno chi ci picchia non ci cambia la vita di una virgola, perché innanzitutto ci hanno già picchiato e per cui no, le botte le abbiamo già preso, gli insulti li abbiamo già presi. Dopodiché chi istiga questo tipo di violenza non è messo in nessuna maniera in discussione e non c'è dal punto di vista di una persona trans in discussione il fatto che transfobico per primo è lo Stato, transfobico per primo è il sistema. Ed è transfobico perché è solo ed esclusivamente binario, no? Viaggia su un sistema che è maschio-femmina e viaggia su quel binario perché ha bisogno di gerarchizzare maschio-femmina. Non è maschio-femmina, è maschio-femmina. E poi sotto tutto il resto, che non è né maschio né femmina. E nel momento già in cui hai un orientamento sessuale che è diverso da quello etero, sei sotto maschio-femmina. E nel momento in cui sei una persona che ha una disabilità, sei sotto maschio-femmina. E nel momento in cui sei una persona razzializzata, sei sotto maschio-femmina, no? Il sistema binario è così, funziona in quella maniera lì. Avevo bisogno di raccontare queste cose e per cui avevo scritto questo articolo che doveva uscire su JAP, il blog della Women Foundation. Avevo proposto ai Wuming di pubblicarlo il 14 di aprile, che è la data in cui cade l'anniversario della legge 164 del 1982, che è la legge che sregola la vita delle persone trans, e poi è andata diversamente perché pochi giorni prima della pubblicazione dell'articolo Wuming 1 l'ha letto e ha detto: Filo, è già un libro, ce l'hai del materiale da integrare? E io ho detto: sì, forse ho ancora qualche sassolino da togliermi dalle scarpe. Per cui da 90.000 battute, che era quell'articolo che già era lungo e sarebbe dovuto uscire in due puntate, è diventato 560.000 battute, per cui un po' di ghiaia da togliermi dagli anfibi ce l'avevo. È una storia che riguarda, che parte da una questione, cioè dal lavoro, che vuol dire l'accesso alla possibilità di esistere, alla soddisfazione dei bisogni primari, Ma nei bisogni primari, e questo c'è, ho cercato di mettercelo in questo libro, nei bisogni primari non c'è soltanto il reddito, non c'è soltanto la casa, c'è la possibilità di relazionarsi, c'è la possibilità di esistere, c'è la possibilità di amare, di essere amato, c'è la possibilità di essere riconosciuto, di essere nel mondo. E quindi quello che sentivo la necessità di fare e che facciamo quotidianamente come persone trans attiviste è di moltiplicare le narrazioni, perché la narrazione trans mainstream è la solita narrazione del corpo sbagliato e de Metapinu che mi è capitato in sorte un corpo che non è il mio, ma il fatto in realtà è un altro. Il fatto è che noi esistiamo, probabilmente siamo sempre esistite, probabilmente anche le persone cis, le persone che sono apparentemente a proprio agio con il loro genere, non sono veramente cis, c'è solo il fatto che le persone che si dichiarano trans devono certificare, devono avere un timbro che dice che ci autorizza ad esistere. Lo dico con la sensibilità di una persona che si dichiara anarchica. Non abbiamo bisogno di nessuna certificazione, non abbiamo nessun bisogno di nessun documento. Esistiamo già. Quello. Quello che chiediamo alle persone che si ritengono cis è di aprire le orecchie e di meditare sui loro privilegi. Sì, mi piace molto questo discorso di filo sulle relazioni, mi fa pensare a diverse cose. E anzitutto al fatto che diciamo, la visione più avanzata, più innovativa nella scienza ora, sia di evoluzione, sia anche di ecosistema e di biodiversità, parla non di specie da proteggere. O dei 5 chilometri di foresta primaria dove dobbiamo individuare tre specie, ma parla di coevoluzione, perché anche l'evoluzione avviene solo nella relazione di tutti gli elementi che compongono un ecosistema. E in questo senso mi è piaciuta una presentazione di un libro a cui ho assistito, che parlava invece di Waste-O-Cene, cioè del capitalismo come di un'era degli scarti, ma non nel senso dei rifiuti, cioè come di un'era che invece di costruire la relazione, che a questo punto diventa un po' il tratto distintivo della vita e della sopravvivenza della vita nel pianeta, no? La possibilità tra tutti gli ordini e livelli di costruire relazione, invece crea solo relazioni di scarto. Infiniti tipi di relazioni di scarto in cui appunto i poveri vanno scartati, i trans vanno scartate, è tutto uno scarto continuo. E in questo, siccome appunto è un tema su cui sto riflettendo in questo periodo, mi è piaciuto tanto un pezzettino del libro che mi permetto di leggervi. È un capitoletto, si intitola La prospettiva delle rane. E dice: un bosco non è gli alberi, non è gli animali, non è i funghi, non è i batteri, i muschi, i licheni. Un bosco è l'insieme di relazioni che intercorrono, si accavallano e si succedono fra presenze vegetali, animali, minerali, ectoplasmatiche in una data porzione di territorio. Non è solo un luogo. È un evento determinato dalla reciprocità di tutti le attrici coinvolte. In La foresta nascosta, il naturalista statunitense David George Haskell prova a far sentire quantomeno il profumo del continuo divenire e dell'intreccio di molteplicità e relazioni dell'esistente. La metafora della vita umana che mi convince di più, fra quelle note mitiche e popolari, è quella che la compara a un viaggio. D'altronde, parafrasando Marco Aime, se guardiamo in basso vediamo che abbiamo piedi, non radici. Ci muoviamo, nel tempo, nello spazio. Mutano i nostri corpi, ci trasformano gli incontri. E se, come dice quella canzone di Vinicius de Moraes, la vita è l'arte dell'incontro, transizionare è una delle modalità che alcuni esseri umani hanno scelto per farsi incontro agli altri esseri viventi. Il fatto che in questo movimento troviamo ostacoli e impedimenti, misura di sorveglianza speciale, obblighi di dimora, fogli di via, ha a che fare con la temperie storica e culturale in cui ci troviamo. Io sono una pancastorie, una cantastorie punk. Non ho la pretesa né il desiderio di dire la parola definitiva sul transfemminismo. Non è solo la consapevolezza di non esserne all'altezza, soprattutto sono convinta che trattandosi di una selva di relazioni in movimento non ci possa essere una parola definitiva. Ci sono tantissime domande, devo scegliere, però vorrei un'altra affermazione che mi è piaciuta. Allora, appunto, avete capito un po' Filo, che appunto inizia a scrivere su JAP, sul blog di Wuming, che fa parte anche del movimento e della lotta No TAV. A un certo punto si definisce, e mi è piaciuta questa definizione, si trav no tav. Ecco, appunto, viviamo in un mondo in cui, diciamo, questa parola sinistra che diventa sempre più un po' sfuggente, in cui spesso abbiamo vissuto in questi anni una contrapposizione tra diritti civili e diritti sociali, per esempio, una contrapposizione poco fruttifera di relazioni positive, diciamo, assolutamente, anzi una contrapposizione che taglia i legami e le relazioni sicuramente. Ecco, in questo senso volevo però, da parte sia di Marte, che appunto è un attivista di Stati Generali in particolare, anche di Non Una Di Meno, sia da Filo, si trav, not have, una riflessione su queerness, diciamo, e attivismo, in questo, cioè, sulle difficoltà o le facilità o cosa vuol dire, ecco, l'attivismo. Così mi gioco tutto. Allora, allora andrò molto velocemente. Allora, difficoltà ci sono, perché comunque diciamo che abbiamo fatto fatica comunque a uscire fuori da tutta una serie di scatolamenti, no? E io ho fatto molta difficoltà a uscire, proprio nel senso a trovare un mio posticino, ma che non è un mio posticino, cioè nel mio profilo Facebook ci ho scritto in viaggio, in movimento da sempre e in continuo movimento, proprio perché io parto dall'io, perché non voglio parlare di altre persone, non è perché c'è un io spropositato, perché appunto questo viaggio che attraverso tramite le lenti del femminismo e del transfemminismo è in continua trasformazione, perché niente è fisso, cioè non c'è una materia fissa in cui poi si va a compartimenti stagni, e la difficoltà alle volte è anche capire che bisogna uscire fuori da molto spesso io nell'attivismo o nella militanza, quella proprio di base, cioè vedo quasi come imparare alcune nozioni a memoria, a mo' di slogan, e riprodurli. Cioè, non è così. Non è imparare perché ti sei letto la frasetta di Audre Lorde oppure di altre persone e te le sei imparate a memoria ed è così, quindi vai per compartimento stagno. Assolutamente no. Siamo in continuo movimento e in trasformazione. E questo è una cosa che si fa molta fatica. Quindi, ritornando un po' a monte, credo che nel trasfemminismo ovviamente abbiamo cioè, tutta una serie di decenni in cui nell'intersezionalità, eccetera, ovviamente chi ha fatto le lotte prima di noi, diciamo che ha aperto il varco, però sta a noi comunque rimodulare in continuazione e alzare l'asticella, perché spesso e volentieri, cioè, manteniamo solo quello che abbiamo. Spesso e molto volentieri manteniamo quello che abbiamo perché il di più spaventa. Assolutamente, credo che sia un po' accontentarsi delle briciole. Per quanto riguarda poi l'attivismo proprio nel vero senso degli ultimi anni, quello che mi piace è che si è rimesso molto in discussione e anche quando magari ha preso via un po' attraverso, ha preso posizioni in cui queste determinate, parlo del femminismo radicale ovviamente, per chi non lo sapesse, questo femminismo non ci appartiene. Quindi c'è stata anche una presa molto forte di posizione. E questo significa che comunque cerchiamo di rinnovarci, non di stare sempre sulla materia fissa, cioè di puntare in alto perché affinché proprio ci fondiamo, non diciamo accettiamo, nel senso, vabbè, sì, ti accetto, vabbè, sei caruccia, sei caruccio. Sei simpatico, mi fa pure tenerezza, no? Alle volte mi sento tipo la quatta panda. Ah, carina, è arrivato il trans. Mi dici quattro parole? Simpatico, non so se ti succede, no? Dimmi la tua opinione come persona trans. Là rimango abbastanza freddo. Non c'ho assolutamente nessuna verità in mano e quindi quello che mi piacerebbe soprattutto che attivismo e ovviamente working class si riuscissero finalmente a parlare, perché considerate che adesso faccio sparo, non insomma lo spiegone breve, ti giuro che ti passo subito la parola. Chi soffre di più la discriminazione? E alle volte, spesso anche nell'attivismo, lo dimentichiamo o lo mettiamo perché sennò poi c'è sta qualcuna che magari si irrigidisce. Sono le donne transgender. Le donne transgender, sia sul mondo del lavoro ma anche nello stesso attivismo, hanno questa invisibilizzazione. Ed è una cosa che deve emergere. Perché se hanno pochissima accessibilità al mondo del lavoro, sono in ribasso, come diceva appunto prima Filo diceva, ci sono i maschi, ci sono le femmine, cioè c'è questo alto. E anche quando si parla delle discriminazioni sul mondo del lavoro o anche nei luoghi pubblici, le donne trans subiscono tantissima discriminazione e invisibilizzazione di ciò che le accade. E quindi insieme a tutte le rivendicazioni, noi dobbiamo mettere pure questo. Volevo solo fare questa piccola aggiunta, dopodiché te lascio la parola, cara. Grazie. Cerco di rendere il discorso complesso sinteticamente, il che non è facile, ma ci provo. Innanzitutto ci tengo a dire che io non sono a mio agio, non uso il termine intersezionale. Perché se sto alla parola, nell'intersezione c'è una segmentazione. E se io guardo in avanti, se guardo a quello che è il mio desiderio, quella che è la mia prospettiva politica, sociale, relazionale, non desidero nessuna segmentazione. Recupero, recentemente ho avuto la fortuna di essere coinvolta nella presentazione, nella riedizione di Sorella Outsider di Audre Lorde, e per cui ho riletto quel testo che avevo letto qualche anno fa nella sua prima edizione, che recentemente è stato rieditato in una versione più più corta ad Amel Temi. Ho messo insieme i pezzi di alcuni degli scritti politici di Audre Lorde. In quegli scritti è abbastanza chiaro, esplicito, che lei dice: non ce ne frega un cazzo dell'omogeneità, non ce ne frega un cazzo della unanimità, invece ci interessa tantissimo l'unità. E quindi dobbiamo capire qual è la differenza fra queste tre cose. Non omogeneità, non siamo tutti uguali. Non unanimità, non la pensiamo tutta alla stessa maniera. Però unità, stiamo lottando tutti per la stessa cosa. Parlare di intersezionalità, cioè utilizzare quel termine, per me rischia di, no, buttarmi o sullo... ho la paura che frammenti, che segmenti la questione e che sia poi la gara a chi c'ha più sfiga addosso. Non ce ne frega un cazzo, regà. Io sono una persona, cioè siamo tutte, non siamo tutte, abbiamo tutte, spero, qui dentro, una prospettiva di cambiamento e di trasformazione. E in questa prospettiva di cambiamento e di trasformazione le nostre differenze sono ricchezza, dobbiamo utilizzarle come ricchezza e come possibilità di rendere più complesso il discorso. E allora ce ne dobbiamo andare lontano dagli essenzialismi, dobbiamo allontanarci dalle identità, dalle casacche, e dobbiamo mettere invece sul piatto i problemi, i bisogni, le necessità e insieme lavorare per la trasformazione, no? È un altro discorso, è un altro discorso. E quindi, no? Parlare di linguaggio inclusivo, vaffanculo, che ce ne frega del linguaggio inclusivo, dentro cosa dobbiamo essere inclusi e incluse? Invece ci interessa parlare di linguaggio esteso, di un linguaggio in cui ci siamo tutte, di immaginari in cui ci siamo tutte, no? Il discorso è che ogni lotta e tutte le lotte, se ogni lotta include ogni lotta, cioè se dentro tutte le lotte ci sono tutte le persone, ci sono le persone razzializzate, ci sono le persone trans, ci sono le persone queer, ci sono le persone che hanno una disabilità, no? Quello sì. E quando intraprendiamo una rivendicazione ci guardiamo intorno e proviamo a guardare se ci siamo tutte, no? Una delle cose che ho imparato, prima è stata citata, la Valsusa, la lotta no TAV. Io là dentro ho imparato tanto e la cosa deve essere anche relativizzata, perché la lotta no TAV ha anche delle questioni da mettere in discussione, è soltanto nella critica che possiamo crescere. Però la cosa che si dice là dentro, io ci credo davvero, che si parte e si torna tutti insieme. Allora, se si parte e si torna tutti insieme, vuol dire che prima di partire ci guardiamo chi siamo. Ci guardiamo chi siamo, ci guardiamo come ci muoviamo, se ci muoviamo su gambe, se ci muoviamo su ruota. Ci guardiamo se abbiamo dei documenti in tasca o se non ce li abbiamo. Ci guardiamo se qual è la tua esperienza, se finisci in caserma, se è migliore o peggiore di quella della mia, no? Perché magari se sei una persona razzializzata la tua esperienza in caserma è diversa dalla mia, se sei una persona trans la tua esperienza in caserma è diversa dalla mia, no? Si parte e si torna tutti insieme, vuol dire questo, vuol dire che prima di partire ci guardiamo chi siamo e decidiamo che cosa vuol dire partire insieme e come ci comportiamo se ci succede qualcosa che non vorremmo che ci succedesse. Questo. più pallida idea. Forse dobbiamo chiedere se delle persone ci hanno delle domande da fare. Siamo oltre? Abbiamo sforato? Siamo un po'... Due domande al volo! Anche tre, dai, regà. O se avete una... Ciao, intanto grazie. Volevo farvi una domanda rispetto alla vostra esperienza di militanza, attivismo, un po' su quello che è stato il vostro rapporto all'interno delle organizzazioni sindacali, su questa questione qui che in realtà apre una grossa questione conflittuale e un po' come è stato entrare in relazione con organizzazioni sindacali proprio su questa questione. Così mi faccio il segno della croce. Che bello, fortuna che non c'è la mia sindacalista. Allora, diciamo molto conflittuale, è un eufemismo ovviamente, molto conflittuale è un eufemismo comunque, ecco, penso di aver ridotto al massimo e sintetizzato, perché siamo comunque dei tecnicismi. Allora, ti ho detto questo piuttosto che quell'altro, siamo ridotti a un tecnicismo, non è messa in complessità tutto il resto, quindi diciamo conflittuale, ecco. Allora, nel momento in cui io ho cominciato la mia personale lotta per essere riconosciuta con il mio nome e il mio pronome, l'organizzazione sindacale a cui faccio riferimento nella mia cooperativa, che è la CUB, che ha tanti problemi, però Santa CUB, mi ha supportato. Grazie a tutte e due. mi ha in qualche modo supportato, cioè nel senso mi ha detto: se hai bisogno, noi ci siamo. Poi diciamo non ce n'è stato bisogno, perché con le buone maniere si ottiene tutto, cioè ricattando e mettendo in difficoltà il padrone ottieni tutto quello che vuoi, basta metterlo in ginocchio e fargli capire che gli puoi fare un danno molto più grande di quello che lui può fare a te. Dopodiché, raga, che disagio, apro un capitolo che sembra differente, però in questo momento con i miei colleghi, le mie colleghe, i miei colleghi di lavoro, noi siamo in lotta, perché siamo lavoratori, lavoratrici, lavoratroci esternalizzate all'interno dell'istituzione universitaria, e il nostro appalto è in scadenza, il regolamento sugli appalti sta per essere cambiato e noi rischiamo di perdere il nostro posto di lavoro, e nel caso in cui lo manteniamo rischiamo di perdere il monte ore, rischiamo di perdere i turni, e molti e molte e molto di noi fanno più di un lavoro, molti, molte, molto di noi hanno a carico lavori di cura con i nostri figli, le nostre figlie, i nostri figli, rispetto ai nostri genitori o anziani e altre cose. E quindi siamo in lotta, e con la CUB abbiamo fatto uno sciopero questo lunedì, e si sono presentati anche, se qualcuno si offende pazienza, si sono presentati anche quei bolliti della CGIL, bollito della CGIL, no, bolliti, e niente, anche soltanto nel linguaggio, tra l'altro della CGIL c'erano più delegati che iscritti. abbiamo fatto uno sciopero in cui eravamo, noi siamo 93 fra lavoratori, lavoratrici, lavoratroci, in totale che lavorano in quel servizio ed eravamo 60, 66, per cui abbiamo fatto uno sciopero buono. C'erano più delegati che iscritti, ok? E anche soltanto nel linguaggio, negli immaginari, c'è stato grandissimo disagio. C'è un grandissimo lavoro politico da fare, dal basso, nei persone trans, soprattutto nei piccoli collettivi, in parte anche nelle organizzazioni più grandi. Io conosco il lavoro di Marte e so che il lavoro di Marte è un lavoro potente, ma non posso parlare allo stesso modo di tutto il lavoro che Non Una di Meno fa a livello nazionale, nel senso che le compagne di Non Una di Meno fanno un lavoro preziosissimo, ma tante volte quella parola transfemminismo maschera una ignoranza e una invisibilizzazione delle persone trans. C'è un grande lavoro da fare. Noi lo stiamo facendo, ripeto la cosa di prima: aprite le orecchie, mettete in discussione i vostri privilegi. Beh, dico solo questo, dopodiché io chiudo. Quando abbiamo fatto uno sciopero durante la pandemia, ci avevamo praticamente, non posso dirlo perché sennò mi denunciano, Confindustria Regione Marche, ci dissero davanti: guarda, 50 donne e un frocio. Però gli avevamo bloccato il cantiere, quindi ecco, diciamo che con questo voglio chiudere, grazie. Grazie, grazie Filo, grazie Marta, e chiudo con le parole di Filo, che guardiamoci, e ci sono tantissime persone stasera qui che non avevamo, che penso che sia la prima volta che vengono qui al presidio dell'ex GKN, allora appunto guardiamoci tutte. E guardiamo dove siamo, anche siamo in un luogo appunto di un'assemblea permanente da 20 mesi, siamo ospiti di operai e operaie che da 6 mesi sono senza stipendio, e siamo dentro un percorso che speriamo non segmentato di convergenza delle lotte e dei processi e delle prospettive per andare e tornare insieme. Io ringrazio tantissimo Marta e Filo per veramente il regalo di aver potuto parlare con loro. Una sola battuta, grazie davvero a tutte voi.